edizione. 6:14 minuti, eccoci qui, ancora buona giornata da Anna Migliorati e questa mattina parliamo di Twitter e di un ritorno in qualche modo, sentiamo. Oh, ma è vero che... ma perché Fiorello è uscito da Twitter? Boh, ma cose da pazzi. A sapere, cose da pazzi. Sarebbe una bella cosa. Oh, che notizia! E sti cazzi, niente da pensare. E sti cazzi, non ce lo mettete? Ce lo mettete, ce lo pure voi, me la domanda. Allora, che l'avete riconosciuto? Questo è Fiorello e a pochi giorni dalla davvero chiacchieratissima scomparsa del suo profilo su Twitter è riapparso, ma non lo troverete su Twitter, bensì su YouTube, sui profili dei fedelissimi amici mattinieri che frequentano con lui l'edicola di Cesare a Roma. E scherza, l'avete sentito proprio al risalto dato dai giornali la notizia del suo addio a Twitter. Siamo avanti, ora postiamo i video su YouTube, dice. Questo e molto altro lo trovate cliccando in rete e noi tra poco però andiamo invece sulle prime pagine dei giornali. Prima edizione. Pronti con le prime pagine dei quotidiani di oggi. Quali notizie troverete? Essenzialmente tre. La Lega, lo scandalo nella Lega, l'accordo che ci sarebbe dopo il vertice notturno con Monti sull'articolo 18 e poi l'avventura in Champions che finisce per il Milan. E con questo potremmo aver davvero riassunto le prime pagine di oggi, ma naturalmente c'è molto altro e allora le guardiamo come sempre insieme, aspettando poi lo spazio più ampio di rassegna stampa di Radio 24 con Alessandro Milan. E cominciamo questa mattina con la Padania, visto che è al centro della notizia di apertura per la maggior parte dei quotidiani di oggi, con le dimissioni ieri sera del tesoriere della Lega accusato dalle procure, dai magistrati di aver sottratto soldi al partito per portarli all'estero, per darli alla famiglia Bossi, e si parla anche di legami con l'Ndrangheta. Allora, ecco come titola quest'oggi la Padania. Indagato il tesoriere Francesco Belsito, che rimette il mandato al segretario federale. Allungano le mani su Bossi per fermare un popolo, temono la Lega, capofila di un movimento che difende la tenuta democratica. Questa è la linea di Bossi, che non è esattamente quella di Maroni, è la linea di Bossi in quanto accaduto. Stefania Piazzo firma in prima pagina sulla Padania. C'è sempre qualcuno a cui giova mettere in discussione la politica, gli uomini che hanno dato una speranza di cambiamento nel paese e messo a rischio la tenuta del sistema. Così la Padania, l'autodifesa di questa mattina. I quotidiani titolano così: la Repubblica, scandalo Lega, i soldi pubblici a Bossi, inchiesta su 18 milioni, PM denaro per famiglie, alberghi e ville con l'ombra dell'Ndrangheta. Il Messaggero, soldi per la famiglia Bossi, perquisita la sede, l'accusa da tre procure per frode e riciclaggio. La Lega nello scandalo dei fondi, il Corriere della Sera, il tesoriere indagato si dimette, soldi pubblici alla famiglia Bossi. I commenti sono moltissimi, uno tra tutti sulla prima pagina della Repubblica è quello di Roberto Saviano. Il velo caduto in via Bellerio, così scrive senza mezzi termini, può accadere che si chiuda l'inchiesta infinito e che dimostri come l'Ndrangheta abbia alleati nell'imprenditoria lombarda, può accadere che emerga che la ASL di Pavia, non quella di una desolata provincia del sud Italia, fosse infiltrata dai clan, può accadere che si chiuda l'inchiesta Aspide che traccia la presenza della camorra casalese in Veneto e dimostri come le imprese in difficoltà venissero risollevate da capitali criminali, eccetera eccetera, commenta Roberto Saviano. Può accadere anche che il carroccio finisca nelle inchieste da Ndrangheta. I verbali pubblicati tra l'altro dalla Repubblica, leggiamo: per l'auto del Trota 50.000 euro, fondi della Lega utilizzati come fossero un bancomat, soprattutto dal fondatore dei Lombardi Umberto Bossi e dalla sua famiglia, il tesoriere del carroccio nel mirino per queste presunte irregolarità, 50.000 euro dalle casse del partito per comprare un'auto al Trota, tra l'altro, scrive la Repubblica. I lavori alla Villa del Senatur pagati con i fondi del partito, dà invece il titolo alla spalla scelta dal Messaggero. L'ultimo stadio di Partitopoli, scrive Antonio Polito invece il Corriere della Sera. Di tutta questa nuova Partitopoli, lo scandalo che ha coinvolto la Lega è il momento più drammatico e più triste. Se infatti la corruzione è arrivata fino agli incorruttibili, allora vuol dire che il cancro è al suo ultimo stadio, così il Corriere della Sera. Molti altri commenti, naturalmente ci sarà spazio per commentarli ancora nel corso della giornata. L'altra notizia invece la troviamo a centro pagina un po' dappertutto: Tramonti e i leader intesa sull'articolo 18, sciolti tutti i nodi, lungo vertice notturno, leggiamo dalla Repubblica. Il Messaggero: articolo 18 si cambia, su licenziamenti il giudice deciderà tra reintegro e indennizzo. Lavoro: pronti all'intesa, scrive il Corriere della Sera. Monti: sciolti tutti i nodi, c'è l'impegno dei partiti dopo l'incontro Fiume con Alfano, Bersani e Casini. Apre su questa notizia, con tutti i particolari che almeno fino ad ora ci sono, il Sole 24 Ore: intesa tra Monti e partiti sull'articolo 18 verso causali rigide sul reintegro, indennità e più conciliazione. Vertice con i leader della maggioranza, stretta più graduale sulla flessibilità in ingresso, in particolare sulle partite IVA, e resta però il nodo copertura. Così sul Sole 24 Ore di quest'oggi, dove vi ricordo trovate anche tutte le novità sugli interventi, gli ammortizzatori sociali, la flessibilità in entrata e poi appunto l'articolo 18 con il doppio canale e meno liti. Tutti i particolari li trovate sul Sole 24 Ore. Apre su questo tema anche La Stampa, ma ha un'intervista La Stampa questa mattina al Premier Monti, firmata dal direttore Mario Calabresi. Allora sentiamo cosa dice Monti a Calabresi, un'intervista al rientro ovviamente del viaggio in Asia prima del vertice di ieri sera, ma comunque Monti parla di molti temi. All'estero, dice tra l'altro La Stampa al Premier Monti, c'è la chiara sensazione che l'Italia oggi possa fare la differenza nell'eurozona. I paesi investitori e le loro imprese devono considerarci prevedibili e stabili nel tempo. In Cina la questione dei diritti umani è seria, l'ho sollevata con gli interlocutori a Pechino. E poi, dice ancora Monti, penso che nella società e in politica i comportamenti virtuosi d'ora in poi non saranno abbandonati. La svolta con me c'è stata, insomma, dice Mario Monti. E poi appunto in serata la riforma più vicina, un'intesa sull'articolo 18 alla tedesca, ne parleremo anche noi più avanti a Prima Edizione. La Gazzetta dello Sport però non può mancare questa mattina nello scorrere le prime pagine. Allora ecco qui Barça con l'aiutino, ed eccola la polemica dopo la vittoria ieri sera del Barcellona contro il Milan, l'addio alla Champions per i rossoneri, ma le polemiche ci sono. Il Barcellona vince 3-1 e merita la semifinale, ma il secondo rigore cambia la gara e fa discutere. E allora rigiochiamola dall'1-1, scrive Paolo Condò raccontando la partita questa mattina sulla Gazzetta dello Sport. Altre segnalazioni, ancora qualche minuto ce l'abbiamo, queste dicevamo le tre notizie principali, ma c'è anche altro. Allora parliamo ancora di calcio e di ultra sulla Repubblica. Gli ultra del Bari hanno costretto la squadra a perdere, quei fedelissimi infedeli del povero calcio truccato. Anche degli ultra si parla in questo calcio scommesse, oggi tra l'altro ci saranno interrogatori importanti, la storia la racconta oggi la Repubblica in prima pagina. Sul Messaggero altre due notizie invece. Una riguarda ancora Celentano. Vi ricordate il Festival di Sanremo, la promessa di dare in beneficenza i soldi che avrebbe guadagnato, ed ora invece c'è la polemica ennesima, perché il Campidoglio scrive a Celentano e dice: ancora aspettiamo la tua beneficenza. Le prediche di Adriano Celentano durante l'ultimo festival hanno fatto venire il mal di pancia a molti, più di un telespettatore. Ebbene, sembra che i soldi però non siano ancora giunti a destinazione, neanche quelli indirizzati a due famiglie romane che versano in grave condizioni di indigenza. E quindi ora il Campidoglio scrive a Celentano e dice: i soldi dove sono? Altra vicenda romana, gli embrioni distrutti al San Filippo Neri, spunta l'ipotesi di sabotaggio, scrive sempre il Messaggero. Una catena di errori e omissioni ha causato la perdita dei 94 embrioni conservati nel laboratorio del centro di procreazione assistita del San Filippo Neri. Queste sarebbero le prime risultanze degli ispettori. Anche noi ieri mattina ne abbiamo parlato a Radio 24 e sembrava che qualcosa non quadrasse. Ora spunta anche l'ipotesi del sabotaggio, così almeno scrive questa mattina il Messaggero. Molte altre notizie, come sempre vi lascio poi ad Alessandro Milan, le segnalazioni sono ancora diverse. Questo intanto un primo quadro dei giornali che troverete in edicola, ma vogliamo anche scherzarci su quella che abbiamo detto, è la notizia che domina, la bufera della Lega. E allora un po' di zapping TV e sentiamo cosa ha detto ieri sera Maurizio Crozza. Si parla persino di collaborazioni con l'Andrangheta,

Avete ascoltato la voce di Maurizio Carbone, il nuovo segretario generale della ANM. Italia in controluce termina qui, nuovamente oggi alle 13.30 su Radio 24. E come sapete, il tema della giustizia resta tema dibattuto quanto mai, e sicuramente lo sarà anche nelle prossime ore, vista l'inchiesta scattata sul fronte della Lega. Ma ne parleremo nel corso ancora della giornata. Nel frattempo, seconda parte di Prima Edizione, 6:38 minuti, ancora buona giornata da Anna Migliorati, e noi parliamo invece di quel che è successo questa notte, perché i partiti e il Premier Monti hanno parlato non di giustizia, ma di un altro tema caldissimo, che è il lavoro. C'è stato un vertice notturno e pare che uno spiraglio di intesa ci sia. Ci racconta tutto Valeria De Rosa. Buongiorno Anna, a te e ai nostri ascoltatori. Allora, prima i commenti. Intanto il Premier Mario Monti ha detto è andata bene, sono stati sciolti tutti i nodi al vertice durato oltre 3 ore. Era presente Alfano, Bersani, Casini. C'era anche il ministro Fornero, ovviamente titolare del Dicastero del Welfare, e appunto hanno parlato a lungo. Più cauto è stato il commento del segretario del PD, il quale ha detto abbiamo parlato, abbiamo detto le nostre cose, ora il governo deciderà. E allora, posto che nulla di definitivo si sa, perché un testo definitivo ancora non c'è, e che il ministro Fornero ha ribadito più volte, così come anche il premier Monti, e lo dice anche nell'intervista di questa mattina alla Stampa, che non ci saranno scostamenti significativi dal testo originario, secondo fonti tecniche però una proposta di mediazione sull'articolo 18 potrebbe essere la seguente, cioè prevedere il rafforzamento del ruolo della commissione di conciliazione tra azienda e sindacati, in cui poi è possibile il ricorso al giudice solo in seconda battuta, e cosa molto importante, l'onere della prova tornerebbe a carico del datore di lavoro. Quindi, se il giudice ritiene che ci sia stato un abuso nella scelta del licenziamento economico, si potrebbe stabilire il reintegro. Sarebbe il giudice a pronunciarsi in ultima istanza, però resterebbe anche la possibilità del licenziamento economico senza il reintegro, e quindi con l'indennizzo economico. Quindi questa è sicuramente un'apertura importante su cui i partiti, soprattutto il Partito Democratico, ha spinto moltissimo. Di contro, sulla flessibilità in entrata, è vero che aumenteranno i vincoli, ma per quel che riguarda le partite IVA, e ricordiamo la previsione della trasformazione del contratto in caso ci sia un unico committente, questo era nel testo originario, il processo in questo caso sarà graduale, quindi questo procedimento di conversione dei contratti per quel che riguarda le partite IVA con il singolo committente sarà graduale nel tempo. Qualche nube resta in merito alla copertura dei nuovi ammortizzatori sociali, ricordiamo fino a 1,7 miliardi in più l'anno, soprattutto per quel che riguarda l'ASPI, la ormai famosa assicurazione sociale per l'impiego. Il ministro Fornero sostiene che non c'è alcun problema, però potrebbe scattare l'aumento dell'imposta su alcolici e tabacco per ripagare, diciamo, questo esborso ulteriore. Nodo dolente, infine, è quello degli esodati. La Fornero ha ribadito che bisogna aspettare i numeri definitivi, forse entro una settimana si potrebbe arrivare ad un numero certo, anche perché è stato aperto un tavolo permanente tra il Ministero del Lavoro, l'INPS e la Ragioneria dello Stato. A quel punto sarà trovata la soluzione, che comunque la Fornero ha detto sarà ispirata ai principi dell'equità, per consentire il pensionamento anticipato a tutte queste persone, sulla base però delle norme che saranno di qui a breve approvate. Questo è allo stato dei fatti quello che noi sappiamo. È probabile anche che oggi arriverà questa famosa telefonata. Oggi cosa succederà? Dovrebbe, a questo punto, se tutto questo sarà verificato e se i partiti daranno il via libera, dovrebbe arrivare la telefonata del Presidente del Consiglio al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sul via libera di questa riforma, e che quindi dovrebbe avere anche un iter abbastanza breve a questo punto per arrivare prima dell'estate all'approvazione della legge. Grazie allora Valeria De Rosa, oggi vedremo se il testo davvero arriverà. Grazie nel frattempo, questo è quello che è accaduto durante la notte. E cos'altro è accaduto in tarda serata durante la notte? Beh, non potevamo non questa mattina non farvi riascoltare anche le voci dal Camp Nou, dove è finita la Champions League del Milan. Il Barcellona ha vinto 3-1, va in semifinale. Per il diavolo cosa restano? Onore e rabbia. Allora, i dettagli sportivi per tutti questi ci sarà tempo e spazio con Gerry Sport alle 7:20. Io vi faccio però sentire invece la voce della serata, quella del dopo partita di Max Allegri. Purtroppo sono stati due rigori, uno diciamo regalato da noi e l'altro diciamo quasi regalato dall'arbitro, però la squadra ha fatto quello che ha potuto, abbiamo fatto discretamente bene nel primo tempo, abbiamo sbagliato molti ultimi passaggi secondo me, dove avevamo lo spazio per andare dentro, e poi fino alla fine abbiamo provato a riaprire la partita e non ci siamo riusciti, però credo che la squadra esca a testa alta in questa competizione. Sensazione era che dopo l'1-1 avessimo la possibilità di poter passare il turno, perché Barcellona sicuramente aveva un po' di pressione addosso, si vedeva anche nello sviluppo del gioco, soprattutto quando riuscivamo un pochino a pressare un pochino di più, non riuscivano bene a uscire. Poi è normale, dopo il 3-1 è diventato tutto più facile. Però credo ai ragazzi non ci sia da rimproverare assolutamente niente. E magari agli arbitri qualcosa sì, Allegri li rimprovera, ma ripeto, ne parleremo più avanti ancora nella mattinata. Nel frattempo il traffico per chi è già in viaggio, poi parleremo di rifiuti per le strade di Palermo. Prima edizione. Pasqua si avvicina, grandi passi ormai, manca poco, ma le strade di Palermo proprio pronte non sembrano. Senza sosta si va avanti nel recupero delle tonnellate di rifiuti arretrati accumulatisi per strada dopo i giorni di sciopero dei netturbini la settimana scorsa. La MIA, l'azienda che si occupa di raccogliere e smaltire i rifiuti nel capoluogo siciliano, ha promesso che l'emergenza entro Pasqua sarà risolta ed è già più che dimezzata. Sarà così? Sarà mantenuta la promessa? Io saluto il direttore generale della MIA, l'azienda di raccolta dei rifiuti di Palermo, Nicolò Gervasi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Siete a metà? Ma anche oltre la metà. Abbiamo recuperato sicuramente un paio di migliaia di tonnellate di rifiuti che si erano accumulati durante l'emergenza, durante la protesta dei lavoratori. Ora recuperiamo con circa 300 tonnellate giornaliere, per cui speriamo di superare la fase critica entro sabato. Le famose pale meccaniche sono arrivate? Non dovevano arrivare delle pale meccaniche, noi abbiamo delle nostre pale meccaniche, alcune con sorelle del comune ne hanno messo a disposizione un altro paio, abbiamo complessivamente 6 pale meccaniche, 2 ben a poli, poi i nostri compattatori. Tutta l'emergenza è stata gestita in assoluta autonomia dall'azienda con pochissime ore di straordinario. Senta, ma mancano davvero poche ore, 24 ore su 24, i palermitani non sono così convinti che ce la facciate per Pasqua, voi sì? Noi siamo fiduciosi, mancano ancora mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, sono 4 giorni. In questi 4 giorni riteniamo comunque di avere una città in condizioni più che decenti da poter dare ai palermitani. Chiusa questa emergenza, il problema è risolto? Il problema, diciamo così, che è strutturale, tant'è che l'AMIA è un'azienda in amministrazione straordinaria. E infatti, e quindi poi, passata Pasqua, si ricomincia? No, ci sono dei contatti in corso con l'amministrazione comunale per una parziale integrazione del contratto di servizio, e ci sono contatti col Ministero dello Sviluppo Economico perché i commissari, che sono coloro che amministrano la società, i commissari straordinari, ai sensi della legge 270 del 99, debbono contestualmente rendere conto al Ministero tutte quelle che sono le azioni economiche e le situazioni contabili presenti in azienda per arrivare. Che non sono le migliori. No, assolutamente. E quindi quanto ci vorrà? Abbiamo detto entro 4 giorni risolto il problema del pratico dei rifiuti, ma poi? Poi bisognerà che il piano industriale dell'azienda, che è stato già presentato e che è stato approvato, venga confermato da parte del Ministero. è un momento abbastanza, come dire, abbastanza critico da parte di tutti quanti, perché bisogna mettere in atto anche quelle ristrutturazioni aziendali e occorre anche presentare un concordato, perché per chiudere poi la fase della avete paura di che cominciare ad avere la stessa fama di Napoli, città sporca e piena di rifiuti a vita? No, perché la situazione di Palermo è leggermente diversa da quella di Napoli, per cui ci sono state ciclicamente, dico noi, l'ultima emergenza vera l'abbiamo avuta nel 2009, che è anche quella per cause, diciamo così, economiche, tant'è che poi siamo andati in stato di insolvenza, e anche quella di oggi è strettamente collegata a problemi economici. Quindi lei dice: noi la struttura ce l'abbiamo, i soldi un po' meno, e soprattutto la gestione però, Esatto, ma la gestione è squisitamente, strettamente legata a quelle che sono le condizioni economiche di un'azienda. Un'azienda in insufficienti condizioni economiche ritengo che possa perfettamente funzionare, perché c'è una struttura abbastanza funzionante, ecco. Va bene, almeno voi ottimismo ne avete, noi vi terremo d'occhio però e cercheremo di raccontare come sarà davvero Palermo a questo punto, a Pasqua. Grazie nel frattempo al direttore generale della MIA, Nicolò Gervasi, buona giornata. Buona giornata a voi. Allora, vedremo se sarà così davvero Palermo. Intanto io voglio chiudere questa mattinata invece con un pizzico di buon umore, andando ancora sulle pagine dei quotidiani e sulla pagina del Corriere della Sera. Ci mancano 25 minuti di sorriso. La Sorbona tiene un corso per aumentare la durata del buon umore giornaliero. 50 anni fa ridevamo per 15 minuti al giorno, adesso il tempo si è ridotto a 5. Ne servirebbero 25 per passare una buona giornata. E allora questo è il mio augurio per oggi, 25 minuti di sorriso in questo mercoledì. Nel frattempo grazie Peter Bescapè, Viola Bottoni come sempre in regia, restano con noi ci risentiamo tra pochissimo con le notizie di GR24. Buona giornata da Anna Migliorati.